Mix 24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Deve continuare da parte di tutti il cammino spirituale di partecipazione concreta in difesa dei nostri fratelli e delle nostre sorelle perseguitati, esilati, uccisi, decapitati per il solo fatto di essere cristiani. Loro sono i nostri martiri di oggi. Auspico che la comunità internazionale non assista muta e inerte di fronte a tale inaccettabile crimine. Auspico veramente che la comunità internazionale non si rivolga lo sguardo da un'altra parte. Ecco, questo è l'appello del Papa dopo la strage all'Università di Garissa in Kenya. Ma per provare a capire come stanno le cose e quali sono le confessioni religiose bersaglio dei fondamentalisti, ci può aiutare il punto di Paolo Pagliaro dato in onda l'altro giorno a 8:30. Da 15 anni la Fondazione Pontificia Aiuto alla Chiesa che Soffre fotografa il grado di rispetto della libertà religiosa in 196 paesi, analizzando le violazioni subite dai fedeli di ogni credo e non solo dai cristiani. La classifica viene realizzata prendendo in considerazione gli episodi di violenza a sfondo religioso e indicatori diversi come il diritto alla conversione, a praticare la fede, a costruire luoghi di culto e a ricevere un'istruzione religiosa. Secondo l'ultimo rapporto, che prende in esame il biennio 2012-2014, la persecuzione dei credenti è cruenta in 20 paesi, in 14 dei quali è legata all'estremismo islamico: Afghanistan, Arabia Saudita, Egitto, Iran, Iraq, Libia, Maldive, Nigeria, Pakistan, Repubblica Centrafricana, Somalia, Sudan, Siria e Yemen. In altri 6 paesi l'elevato grado di violazione della libertà religiosa è legato all'azione di regimi autoritari, così in Azerbaigian, Birmania, Cina, Corea del Nord, Eritrea e Uzbekistan. I cristiani sono la minoranza religiosa maggiormente perseguitata, ma non sono gli unici. Ha scritto il Comitato Giustizia e Pace dell'Assemblea degli Ordinari Cattolici di Terra Santa in un documento pubblicato dalla rivista dei Gesuiti La Civiltà Cattolica. In nome della verità, occorre sottolineare che i cristiani non sono le sole vittime di questa violenza e di questa ferocia. I musulmani laici, tutti quelli indicati come eretici, scismatici o semplicemente non allineati, sono parimenti attaccati e uccisi. Si deve riconoscere, prosegue il documento, che le prime vittime dell'estremismo islamico sono proprio quei musulmani che non sono d'accordo con il punto di vista degli estremisti. Questi ultimi hanno ucciso più musulmani che cristiani. È un dato quasi sempre ignorato dai teorici dello scontro di civiltà. Ecco, padre Giulio Albanese Comboniano, giornalista esperto di Africa. Allora non è proprio solo una caccia al cristiano. Direi che noi stiamo assistendo, soprattutto guardando a quello che è il contesto dei paesi arabi, non mi stancherò mai di ripeterlo, ad una strumentalizzazione della religione per fini eversivi. Nel senso che vi sono delle cellule eversive, vere e proprie metastasi del salafismo, che seminano morte e distruzione, affermando un teorema fondamentalmente legato a quello del califfato. E non dimentichiamo che il moderno califfato, così come loro lo interpretano, non fa altro che generare la dissolvenza, l'implosione degli stati arabi ereditati dall'epopea coloniale, in altre parole dalle ex potenze coloniali. Certo, ecco, padre Albanese, però in Kenya invece è stata una caccia al cristiano. I terroristi di Al-Shabaab hanno ucciso solo gli studenti cristiani. È una situazione specifica nel rapporto tra Kenya e Somalia? Diciamo che ci sono diverse componenti che interagiscono tra loro. Va ricordato che nel 2011 l'esercito keniano è entrato in territorio somalo, e questo con l'intento proprio dichiarato di sconfiggere gli Al-Shabaab. Gli Al-Shabaab naturalmente hanno giurato vendetta, e così è stato. In effetti, l'episodio. Però una vendetta nei confronti dei cristiani, perché in questo non caso. Solo dei cristiani. No, dicevo, in questo caso si è proprio messi i cristiani da una parte. E non è la prima volta. Mm. In alcuni casi gli attacchi, come dicono gli inglesi, sono stati random, nel senso che hanno colpito gente comune. Chi c'era? Per esempio, non so, pensiamo al famoso attacco del 21 settembre del 2013, quando fu colpito il grande shopping mall di Westgate, dove persero la vita anche degli occidentali. Ma in altri casi, in altre circostanze, hanno colpito nel passato anche presidi cristiani, chiese, cappelle di questa o quella confessione cristiana. Ecco, padre Albanese, però la Somalia, per restare al rapporto tra Kenya e Somalia, la Somalia da sempre è stato un protettorato italiano. Noi racconteremo poi la storia di questa vicenda. È stato un protettorato italiano, dicevo, e l'Italia in qualche modo alla sua dipartenza aveva raggiunto una sorta di equilibrio nella transizione. Che cosa è capitato dopo? La situazione è estremamente complessa, nel senso che non dimentichiamo che per 10 anni, dal 1950 al 1960, al nostro paese, dalle Nazioni Unite, è stato affidato il cosiddetto mandato fiduciario, nel quale praticamente è stato organizzato lo Stato somalo. Sono state create le istituzioni, quelle che hanno poi statuali, quelle che poi hanno permesso, come dire, a questa nazione di stare in piedi da sola. Purtroppo ci sono state una serie di fattori legati anche alla guerra fredda, purtroppo ad una diffusa corruzione, a contaminazioni esterne, tra virgolette straniere. Non dimentichiamo che la Somalia, questo va sottolineato con forza, è un paese ricchissimo di commodities. Certo. Questo è un aspetto che solitamente viene sottolineato. Viene trascurato, è vero. C'è tantissimo petrolio tra la sponda yemenita e quella somala. Tantissimo petrolio. Giacimenti di gas e inoltre c'è anche un grande giacimento di uranio. Ed è chiaro che questa ricchezza, come dire, ha rappresentato un fattore di grande instabilità. Però se me lo consenti c'è un aspetto che vorrei sottolineare. Sì. E riguarda soprattutto i motivi, le ragioni per cui gli Al-Shabaab hanno deciso di colpire i cristiani. E questo peraltro è una costante non solo in Kenya, ma anche per esempio in Nigeria. Sì, e qual è questo motivo? Colpiscono i cristiani fondamentalmente per due motivi. Innanzitutto perché vengono identificati con la cultura occidentale. Certo. E qui gli Al-Shabaab sbagliano, perché è inutile nasconderselo, il cristianesimo non è nato in Europa, ma il cristianesimo è nato in Medio Oriente. Ma c'è un secondo aspetto. Loro hanno la certezza, e in questo hanno effettivamente ragione, che bucano lo schermo. In altre parole, nel momento in cui vengono colpiti obiettivi cristiani, in ogni caso una grande risonanza a livello mediatico, e questo naturalmente a loro serve per far passare un messaggio subdolo, che la loro è una guerra di religione, che loro sono i detentori della verità, e questo naturalmente genera paura, genera malessere, e il fatto stesso che stiamo qui a parlarne la dice lunga. Quanto ha inciso la guerra in Iraq degli americani sulla sulla degenerazione della situazione nell'area? Guarda, la prima considerazione da fare è questa. Noi ci troviamo di fronte a gruppi, a movimenti terroristici. Questo era verissimo in particolare per quanto riguarda le vicende dell'Afghanistan. E la verità qual è? Che quando tu metti in campo un esercito convenzionale è difficile che riesca a vincere una guerra asimmetrica, nel senso che i terroristi, queste formazioni ribelli, colpiscono quando meno te l'aspetti. Certamente l'intervento in Iraq ha rappresentato un'ulteriore involuzione in questo senso, perché se da una parte è vero che Saddam era un criminale patentato, ne ha fatte di botte e di crude, comunque il problema di fondo è che nel momento in cui è stato eliminato, e questo è un ragionamento che se vuoi potremmo estendere anche ad altri scenari, ad altri scacchieri geopolitici, mi viene in mente la crisi libica, l'eliminazione di Gheddafi. Sì, certo, no, tutto questo è avvenuto senza che l'Occidente, senza che la comunità internazionale avesse effettivamente una strategia, un piano che in una maniera o nell'altra potesse... Insomma, non c'era una soluzione per il dopo. Un'ultimissima cosa, ma esiste una soluzione non militare? Guarda, nei confronti dell'ISIS? Il primo sforzo che noi dovremmo fare è a livello di intelligence. Oggi esistono tecnologie che ci consentono, per esempio, di capire in che modo avvengono le transazioni bancarie. Non dimentichiamo che questi gruppi ricevono finanziamenti. Certo, no, soprattutto le armi che usano sono armi che vendiamo noi. Anche i denari. E tutti sanno, e questo lasciamelo dire, un po' il segreto di Pulcinella, che effettivamente questi signori vengono sostenuti dalle cosiddette petromonarchie. Certo. E la cosa curiosa è che nessuno ha il coraggio di alzare la voce. Guarda, c'è un dato molto inquietante e credo che sia quello più importante a mio avviso in questo contesto da sottolineare. Il 15 marzo scorso il Gran Mufti dell'Arabia Saudita ha dichiarato che tutte le chiese cristiane presenti nel Golfo devono essere rase al suolo. Beh, non c'è stato un politico occidentale, una cancelleria che abbia alzato la voce. Questo dimostra che quando si tratta di fare affari con il mondo arabo, quando si tratta di fare investimenti, nessuno si tira indietro. Quando si tratta, come dire, di alzare la voce, insomma, per affermare i diritti umani... C'è una falsa coscienza, un'ipocrisia che domina i rapporti. Ecco perché queste, le nostre, in questo frangente, rischiano di essere lacrime da coccodrillo. E qui davvero ha ragione Papa Francesco nel dire che il nostro silenzio, la nostra omertà è peccato. Ecco, Pietrangelo, ma il Gran Muftì dell'Arabia Saudita che dice quelle cose, parla a nome di chi? Ovviamente è il solito problema, parla a nome di se stesso, può parlare a nome della comunità che si riunisce all'interno della sua moschea, non c'è un'unica voce che possa parlare a nome di tutti. Ma quando si... No, prego. No, dicevo, ma quando si dice soluzione militare nei confronti dell'ISIS, esiste secondo te un'ipotesi, una possibilità? La soluzione deve essere militare innanzitutto. La situazione è questa, e siccome nelle officine di informazione occidentale non viene detto quello che sta succedendo, cioè che per esempio, ma noi l'abbiamo detto Mario più volte ne ha fatto cenno, dire che per esempio a Tikrit i combattimenti più duri e i colpi assestati all'ISIS sono stati portati a compimento da Qassam Suleiman, il comandante iraniano, bisogna ricordare, e ne approfitto proprio perché ascoltando le parole bellissime di padre Giulio Albanese, ricordare che in Siria sono state liberate da combattenti musulmani le chiese occupate dai terroristi dell'ISIS e hanno fatto suonare le campane per richiamare i fedeli e ritornare nelle chiese da dove erano stati cacciati, nella migliore delle ipotesi, se non trucidati dai terroristi dell'ISIS. E poi vorrei dire ancora una cosa, Giovanni, dalle parole di Giulio Albanese, di padre Giulio Albanese, ha detto una profonda verità su cui nessuno vuole fare i conti, e cioè dire una volta per tutte che c'è un'obiettiva complicità e un legame strettissimo tra le petromonarchie e i terroristi dell'ISIS, e dire una volta per tutte che anche l'Italia si ritrova nell'imbarazzo di non alzare la voce di fronte a delle alleanze che sono dettate da interessi economici in secondo ordine, ma di sudditanza rispetto alle alleanze internazionali, rispetto a realtà, a cominciare dal Qatar, che hanno obiettivi legami coi terroristi. E su questo bisogna muoversi, e quando le polemiche si fanno forti e quando magari si crede che i terroristi arrivino con i disperati dai barconi, bisogna dire che il livello è molto più alto, e quindi non fermarsi a quel tipo di analisi è indicare chiaramente quali sono le obiettive responsabilità del mondo arabo, del mondo delle petromonarchie rispetto ai legami col terrorismo internazionale. D'accordo, Mario, sulla responsabilità delle petromonarchie? Beh, insomma, i sauditi fanno un gioco pericolosissimo in questo momento, intervengono militarmente, ma soprattutto fanno quello che io ho chiamato, no, il gioco dell'omino nel pozzo, cioè tengono il prezzo del petrolio molto basso dentro l'OPEC. Lo possono fare perché ne hanno, come dire, le capacità economiche, ne hanno la potenza, insomma. Sì, però estrattiva. È un gioco che sta distruggendo completamente il già precario ordine geopolitico che c'era prima. Magari questo lo diremo anche noi dopo. Ne parliamo dopo, infatti. Sì. Noi adesso parliamo di petrolio. Signore e signori, se mi definisco un cercatore di petrolio, sarete d'accordo con me. Ho attraversato il nostro stato per venire qui a esplorare il territorio. Che avete trovato? Ho trovato varie interessanti possibilità. Ho molti pozzi che producono migliaia di barili al giorno. Posso garantire di iniziare a trivellare e di predisporre il denaro a conferma della mia parola. Se qui c'è qualcosa, la portiamo fino al mare. Mettiamo in opera una tubazione e facciamo un accordo con la Union Oil. Così facciamo i soldi veri. Qui è di petrolio che stiamo parlando, giusto? Si sta esaurendo. E il 90% di quello che rimane è in Medio Oriente. Questa è una lotta mortale. Sai cosa pensa di voi il mondo degli affari? Pensa che 100 anni fa qui vivevate nelle tende, nel deserto, tagliandovi la testa tra di voi, e che tra 100 anni sarete di nuovo così. Quindi sì, a nome della mia compagnia accetto i tuoi soldi. Vi resterò soltanto dei vaghi ricordi di un caos immane e l'ossessione di un uomo sempre in lotta. Era figlio dei tempi in cui il mondo viveva sotto il dominio dell'oro nero e i deserti brillavano per le fiamme delle gigantesche torri che estraevano il petrolio. Ora tutto è distrutto. Senza il petrolio l'uomo tornò alle sue origini primitive e tutte le sue macchine favolose andarono in rovina. Ecco, Davide Tabarelli è il presidente di Nomisma Energia. Fino a pochi mesi fa si parlava di indipendenza energetica degli Stati Uniti grazie allo shale gas, cosa che avrebbe cambiato il mondo. Ecco, con il crollo del prezzo del petrolio, l'America cambia la sua strategia energetica? No, non cambierà di molto. Di dipendenza da petrolio degli Stati Uniti si parla dal 73, perciò è un tema di lungo termine. È cambiato qualche cosa, le cose stanno migliorando per gli Stati Uniti, ma non è che sono completamente indipendenti. Ecco, qualcosa, ma oggi in America conviene di più lo shale gas o il petrolio? Tutti e due, perché il gas serve a fare l'elettricità soprattutto al posto del carbone, questo è un beneficio. Il petrolio serve a far andare le macchine e purtroppo i due non sono intercambiabili. Gli americani sono il 5% della popolazione mondiale e consumano il 20% dell'energia totale. Quanto è concreto il raggiungimento poi dell'indipendenza totale energetica in America? Ma se sommiamo tutto il carbone che consumano, che è ancora tantissimo, costa ancora per un 30% dei loro consumi energetici, più la produzione nucleare, hanno metà della produzione occidentale nucleare, poi tutto il gas, sono vicini al 90%, ma ripeto, il problema è il petrolio che fa andare le macchine, e lì devono ancora importare un 30%. Ecco, ma che conseguenze potrebbe avere una totale indipendenza energetica americana sulla politica estera, sullo scacchiere mondiale? Ma un po' l'ha già avuto una conseguenza, perché il crollo che c'è stato negli ultimi 6 mesi, da 110 agli attuali 55, è dovuto al fatto che l'Arabia Saudita ha paura del ritorno dell'Iran, che è stato causato da un avvicinamento fra Stati Uniti. Non c'è dubbio, l'abbiamo visto, ne parleremo. Ma perché intanto in Europa non prende piede l'estrazione dello shale gas? Ma perché prima di tutto è un fenomeno americano, e una delle ragioni, anche se non l'unica, è che in Europa abbiamo paura di tutto, anche di questa fratturazione delle rocce, che è la produzione un po' innovativa che porta allo sfruttamento di questi enormi giacimenti che si sa che esistono ma sono difficili da accedere. Ecco, ma dopo l'accordo appunto sul nucleare iraniano, che cosa cambierà nella produzione del petrolio in Iran? Ma aumenterà nell'arco di 6 mesi, potrebbe aumentare dagli attuali 2,8 a 3,8, ma questo era un paese che prima di Khomeini produceva 6 milioni, perciò aumenterà. Ecco. Quindi piano piano tornerà. Senta, dottor Tabarelli, ma sarà guerra anche a suon di barili tra Arabia Saudita e Iran? Lo è sempre stato e lo sarà. Quello che è accaduto negli ultimi mesi è proprio questo: l'Arabia Saudita non vuole fare posto al ritorno dell'Iran, né tantomeno quello dell'Iraq, che sta andando molto bene, anche la produzione irachena che è tornata ai livelli di quando c'era Saddam Hussein. Senta, ma qual è il paese con più risorse energetiche, gas e petrolio, al mondo? L'Iran è ai primi posti, poi c'è la Russia, tenendo conto di tutti e due, gas e petrolio, però l'Iran è uno dei primi, assieme a Russia e poi anche Stati Uniti. Ecco, ma parliamo dell'Europa. L'Europa potrebbe beneficiare del boom di gas e petrolio, questo mix americano, o i prezzi del trasporto sarebbero sempre troppo alti per noi? Guardi, l'Europa che non vuole il fracking, però intanto deve ringraziare questo shale gas, questa rivoluzione americana, perché se i prezzi sono scesi, la seconda causa è proprio quello che sta accadendo, il suo straordinario aumento di offerta americano, perciò noi stiamo traendo grandi benefici. Sì, però a noi non converrebbe mai scegliere quel gas e quel petrolio rispetto, per esempio, al partnership con la Russia, no? No, sì, perché negli Stati Uniti adesso costa 10 euro. Il costo del trasporto sarebbe troppo alto. Sì, perché i costi raddoppierebbero, gli attuali prezzi degli Stati Uniti raddoppierebbero e sarebbero in questo momento allineati a quello che paghiamo sui mercati spot e sostanzialmente quello che paghiamo dalla Russia. Quindi, dottor Tabarelli, parliamo dell'Italia. La Russia sostanzialmente è il partner energetico a cui dobbiamo guardare di più? Assolutamente sì, perché ha enormi quantità di gas, oltre che di petrolio, anche di carbone, minerali, è un mercato immenso, è un paese europeo che è tutto nostro interesse che sia stabile e la stabilità viene portata soprattutto a relazioni durature economiche. Questo però agli Stati Uniti non è che fa un piacere enorme. No, tutt'altro, ecco, però gli Stati Uniti sono lontani e poi nel lungo termine... Sono lontani ma incidono. Sì, ovviamente sì, noi dobbiamo essere grati per quello che hanno fatto negli ultimi 100 anni, negli Stati Uniti, per l'Europa. Nei prossimi 100 dobbiamo pensare ad altro, per i prossimi 100, eh? Sì, dobbiamo guardare anche a est, oltre che il mercato internazionale dell'energia, anche del gas. Ecco. Quindi, diciamo, dottor Tabarelli, adesso ci sarà un nuovo gasodotto che attraverserà i confini di Turchia e di Grecia. Che cosa cambierà per gli approvvigionamenti energetici europei? Cambierà molto? No? Ma non tantissimo, perché sostituisce il vecchio progetto di South Stream che doveva fare la Russia, Gazprom, che ha fatto saltare un po' perché era difficile, un po' perché l'Europa non ha bisogno di tutto questo gas, ma sarà sempre un rafforzamento dei legami con la Russia. Ecco, ma in questa guerra al barile di cui parlava prima anche lei, tra Arabia Saudita e Iran, chi ne trarrà vantaggio? Ma vedendola in maniera molto semplicistica, soprattutto i consumatori. Vede, il prezzo del petrolio adesso 55, i costi di estrazione in Iran o in Arabia Saudita sono di 5-10 dollari, pertanto più offerta, prezzi a ribasso, pertanto più accesso a questo ben di Dio che è il petrolio. Ecco, dottor Tabarelli, ma il prezzo del greggio come ha reagito all'accordo sul nucleare in Iran? Per adesso ancora mi sembra che stia lì. Ma sì, cioè aveva già scontato, questo è un mercato che possiamo criticarlo tantissimo, ma è anche efficiente, aveva già scontato questi eventi, cioè un riavvicinamento dell'Iran all'Occidente che è evidente dallo scorso giugno, quando c'era bisogno dell'Iran per combattere l'ISIS in Iraq. Che poi è la punta di diamante nella lotta all'ISIS l'Iran. Esatto, perché per dare stabilità a quell'area lì è indispensabile che ci sia l'Iran, oltre al fatto che ritorna verso l'Occidente una delle nazioni più importanti di quell'area lì. Sì, che produce poi una strana alleanza fra Arabia Saudita e Israele. Esatto, come reazione. Cioè, è una cosa paradossale, ma l'Arabia Saudita è il paese in quell'area lì più strano, per usare un eufemismo, ma allo stesso tempo più stabile in assoluto, perché è lì da oltre 70 anni. E se non dovesse usare un eufemismo, cosa direbbe? Medioevale. Lo scorso 6 marzo, dottor Tabarelli, la Commissione Valutazione di Impatto Ambientale Nazionale, parlo dell'Italia, ha dato l'ok al progetto Ombrina Mare e a un altro simile che prevede un pozzo esplorativo sulla costa adriatica abruzzese. Come procede l'avanzata del petrolio in Abruzzo e Molise? Procede intanto? Lei ne ha dato notizia come che fosse un evento straordinario. Queste cose una volta accadevano con regolarità, non erano notizie. Purtroppo procede con estrema fatica, questo è un paese che ha una tradizione mineraria millenaria nel petrolio secolare ed è un peccato, una distruzione di risorse, un danno economico, un costo per la collettività, tutto questo ostacolare per supposti principi ambientali. Quindi è una tradizione sostanzialmente rinnegata completamente? Assolutamente sì, perché noi siamo usciti dalla povertà anche, non solo, ma anche grazie al metano della pianura padana, questo metano ce n'è tantissimo nell'offshore, c'è petrolio, abbiamo uno dei più grandi giacimenti al mondo che è quello della Basilicata che pian piano stiamo sfruttando. Uno dei più grandi giacimenti al mondo? Sì, quello della Val d'Agri, Basilicata, petrolio di buona qualità, L'ENI produce circa presto 100.000 barili al giorno, potrebbe produrne 150, questa differenza da 100 a 150 è tutte risorse buttate via. C'è un altro giacimento lì vicino. Cioè, a quanto potremmo coprire del fabbisogno nazionale? Sfruttando al massimo il nostro potenziale di estrazione petrolifera. Ma siamo attualmente al 10% della nostra domanda di idrocarburi, gas e petrolio, potremmo arrivare al 20%. Quindi ci sarebbe per 20%, che significa in risparmio quanto? Ma noi sulla bolletta petrolifera, diciamo energetica? Qualcosa come 10 miliardi di euro in meno di bolletta petrolifera all'anno, ma poi soprattutto si tratta di profitti che verrebbero fatti qua dalle nostre imprese, come all'ENI, ma anche altre, che verrebbero tassate e servirebbero come acqua per le secche casse dello Stato che non sanno più dove prenderli. Ecco, ma questi sono i principi economici, cioè le nostre imprese devono fare profitti per essere tassate e distribuirla questa ricchezza alla collettività. Senta, dottor Tabarelli, ma per quanti anni si potrebbe estrarre petrolio in queste zone, se si può fare una previsione? Guarda, però, torno all'inizio, la rivoluzione dello shale americano, che è un fenomeno americano, ci insegna che la capacità tecnologica di questa industria è fuori dal normale, continuano a trovarne il petrolio anche convenzionale. Qua sicuro è che andrà avanti per 30 anni, ma potrebbero trovarne molto altro, se non fosse che hanno già bloccato esplorazione di nuovi giacimenti, di fatto. Ma ce n'è tantissimo di petrolio in giro per il mondo, anche da noi. Senta, dottor Tabarelli, un'ultima cosa, ma il prezzo del petrolio per quanto reggerà a $50? Ma dovrebbe essere un minimo, ovviamente condizionale, dovrebbe riprendersi verso i 70 nell'arco di un anno. E poi rimanere tendenzialmente nel lungo termine basso. Ecco Mario, una domanda rapidissima, sì, che siamo in ritardo. Oggi sul petrolio, noi abbiamo sentito cose interessantissime, sì, però dipendiamo molto dalla Libia. Sì. Per adesso, in attesa di fare tante cose. È un produttore importante, ovviamente. Importante. E lì noi abbiamo la nostra Leni, azienda. Leni, lì come stiamo messi? Beh, l'ENI è un'azienda chiave per la Libia. No. Se si spegne l'ENI, si spegne l'energia elettrica di tutta la Libia. Quindi è chiaro che noi abbiamo una posizione di grande forza, noi come Italia intendiamo, che andrebbe sfruttata dal governo italiano sul piano diplomatico, secondo me. Mix 24. Mi sono alzato, mi sono vestito e sono uscito solo per la strada. Ho camminato a lungo senza meta. Allora, Pietrangelo? E allora succede che quando si è soli per strada, si ha spesso una meta, ma questa meta viene dimenticata, e sentire cantare poi diventa un dono di allegria, come quel ritrovarsi con un fiore in mano, col calore al cuore, la felicità in tasca e una canzone, questa di Lucio Battisti, La Compagnia, a far da blasone, perché quando si è soli ci si scorda di se stessi e del dolore, e quindi di ogni motivo di dolore, di felicità e di sorpresa. E oggi in metropolitana i pendolari dell'alba, quelli proprio avvolti dal primo freddo, quello che poi se ne andrà nel corso della giornata, e quindi incappucciati tra le loro sciarpe, i loro berretti, erano dimentichi di ogni meta e hanno sentito cantare da tutti i bar dove ciò che è stato perduto si è ritrovato nella ruota di ieri con l'oggi, con queste parole, quelle che Lucio Battisti canta nella Compagnia. Denunzia, perché gli ho detto che... Andiamo con la bolla, Mario? Procediamo. Rossi, Scirea, Bergomi, Scirea, Tardelli, gol, Tardelli, raddoppio, Ah, qui siamo proprio a padre e figlia, vai, vai. Sì, no, ma io ho messo il Tardelli vero, però. Certo, noi ci abbiamo il risultato. Noi abbiamo, io ho messo il, poi c'è la, dai, rifallo. Vai, vai, che siamo in ritardo oggi. Vabbè, niente, Italia e Germania, non finisce né 4-3 né 3-1, però, insomma, in attesa di vedere il DEF, quello vero, e non le linee guida, che ovviamente evaporano, è interessante vedere la Germania che sì, ha una ripresa ancora lenta rispetto alle aspettative, però insomma l'export tedesco poi a febbraio avanza dell'1,5% mensile, a gennaio aveva arretrato, l'import cresce dell'1,8%, l'avanzo commerciale è stabile a 19,7 miliardi di euro, sono i numeri di un'economia, di un'economia solida, mentre mi pare che i numeri italiani, avete visto il PIL degli ultimi 10 anni al di sotto della media europea, meno 1,9 mi pare, adesso sto andando a memoria. Sì, sì, ma siamo fermi. Siamo molto fermi e non ci sono riforme. Salamino! Salamini sanfedisti oggi! Allora, Lupi prende il posto di De Girolamo, il capogruppo di NCD diventa dunque Maurizio Lupi, che fu dimissionato da ministro alle infrastrutture, ma Nunzia De Girolamo, sfiduciata da quella massa di parlamentari al seguito di Angelino Alfano, non ne abbassa le orecchie, anzi dice, ascoltate, mi hanno detto che Renzi ha chiesto la mia testa e che voi siete chiamati a dargliela, che si faccia pure. Io non scappo, non esco dal partito, ma sono di centrodestra e non sarò mai lo zerbino di Renzi. Ah. Ecco, femmina guerriera, Nunzia prende di petto Angelino, il timido Angelino, il dolce Angelino, e ad Angelino lo battezza, lo confessa e lo comunica davanti a tutti e gli dice: ma che persona sei? Tu abbandoni tutti, Angelino, ma alla fine resterai solo. E poi, guardando in faccia tutto il citrullame moderato, Nunzia ha continuato: siamo un partito senza DNA. Il nostro è un lento ma inesorabile suicidio. Continuiamo così e spariremo. E quando l'utile idiota, un po' tutti noi, non servirà più, ci sarà dato un bel calcio nel sedere. La risposta di Angelino è stata che, insomma, lui diventerà l'MP italiano, l'UMP italiano. Ma che ne so, Mario, dimmi una cosa, tu che sei estero su estero, no, ma questo famoso, magari questo famoso UMP sarebbe il partito di Sarkozy? È Sarkozy. Ah, quindi l'abbiamo trovato, il Sarko d'Italia, ce l'abbiamo, sì, quella che ci manca, chi è? Ci manca Carla. Ascoltiamo. On me dit que nos vies ne valent pas grand chose, elles passent en un instant comme frane les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud. Però secondo me Nunzia si mangia pure Carla. Sara. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Non è possibile. Di nuovo sgomitiamo con i nostri cugini francesi per un primato. Allora, io dico, abbiamo trovato un equilibrio sull'amore. A loro abbiamo lasciato il bacio alla francese, noi siamo i migliori invece a farlo l'amore. Gli abbiamo lasciato i croissant e ci siamo buttati sui cornetti. Gli abbiamo lasciato Carla Bruni e personalmente in questo caso li ringrazio. Ma ieri è successo un fatto grave. La Francia è andata all'attacco del primato della rottamazione di Renzi. Marine Le Pen rottama il padre Jean-Marie Le Pen dal partito. Annientare il padre, cioè un atto di liberazione della femmina che dal primo momento in cui non ancora parlante vede il padre rimane succube di quell'amore. Jean-Marie, il padre, dice che faranno i conti nel comitato politico del 17 aprile. Marine, la figlia, vuole scrollarselo dalle spalle come una nuvoletta di forfora, sicura che ormai Vichy fa pensare solo alle creme e all'acqua. Anche Renzi ha un problemino di convivenza, però, stavo pensando, con il suo presidente Orfini, che chiede la cacciata di De Gennaro che invece Renzi aveva confermato. Come andrà a finire questa rottamazione? Pubblicità. Mix 24. Case di pane, riunioni di rane, vecchie che ballano nelle Cadillac, muscoli d'oro, corone d'alloro, canzoni d'amore per bimbi con... Allora, mi fido di te, sì o no? E qua è tutta una questione di fidarsi, in certo, fondo. Famo fidarsi. E parliamo dell'Iran e degli Stati Uniti, dell'accordo sul nucleare, che in realtà nel sottotesto ha un accordo anche futuro sul petrolio. E Rouhani stamattina, poco fa, Rouhani è il presidente iraniano, dice che prima si ritirano tutte le sanzioni e poi si firmerà l'accordo sul nucleare. Data di scadenza per tutto questo, molto difficile a mio avviso, questa roba delle sanzioni, è il 30 giugno. Sembrerebbe una battuta d'arresto, ma in realtà è una trattativa molto dura, perché questo è il punto fondamentale. L'Iran, certo, ha enormi riserve di petrolio, le più importanti del mondo, deve liberare le sue potenzialità, deve provare a venderle. Non è facile, perché i sauditi, avete visto cosa stanno combinando, certo, appunto dentro l'OPEC, e bisogna vedere se gli iraniani riescono a cambiare anche i termini del loro contratto, un contratto un po' particolare, anzi è un capestro per le compagnie petrolifere, e quindi è un partitone gigantesco, un gigantesco, è la cosa più bella insieme all'evoluzione tecnologica della geopolitica che c'è adesso, da seguire. Sì. Noi la seguiamo. Sì. Salamino! Salamini un po' mazzingheschi oggi. Raffaele Cantone, presidente dell'autorità anticorruzione, in attesa di diventare ministro alle infrastrutture, non fosse altro perché Graziano Del Rio, che è l'attuale inquilino al Dicastero, è impegnato a ispezionare la Salerno-Reggio Calabria in bicicletta. In attesa dunque di diventare presidente della regione Campania al posto di Vincenzo De Luca, che... insomma, è inadatto ai selfie. In attesa di diventare scenografo all'Expo, visto che Dante Ferretti, pluripremiato agli Oscar e pluriarrabbiato, ha ritirato la firma sui padiglioni mai realizzati. In attesa di prendersi il posto a Finmeccanica, perché si è capito dove vuole andare a parare la cagnara scatenata contro Gianni De Gennaro. Insomma, in attesa di tutto ciò, ha pubblicato un libro, Il male italiano. Ha pubblicato. Ah, non ha scritto. Ha scritto. Hanno scritto due, dai. Pubblicato. Insomma, sottigliezza. Ho pubblicato un libro, non sottigliare. E chi sottiglia? Conosco le sottilezze. Sottigli pure. Allora, si è preso intanto il posto di Roberto Saviano. Il Pantheon dei supereroi si è dunque aggiornato e finalmente si è capito bene dove andrà a parare l'irresistibile Mazinga Raff. Andrà, come già Renzi vestito da Fonsi, come Saviano addobbato con gli anelli, da Maria De Filippo. Ah, pure lui. Da Filippi, come si dice? Maria De Filippi. Tutti a Filippi, da Maria De Filippi, tutti figli di Maria. Ecco dunque Mazinga Raff. Mazinga vola. Questo è un pezzo d'infanzia proprio, Mazinga. Ancora una bolla, Mario. Che pezzo. Questo è un pezzo arrangiato da Daft Punk. Si chiama Fragments of Time. Sono frammenti, pezzi del tempo. Perché? Perché il tempo è molto importante. Quando alzerà i tassi la Federal Reserve? Questo è il dilemma di tutti. Avevamo preannunciato ieri, mi pare, la pubblicazione delle minute della riunione, quindi dei verbali, esatto, i verbali così, della Fed del 18 marzo. Che dicono questi verbali? Sono divisi, il board della Fed è diviso, qualcuno pensa che i tassi debbano essere alzati a giugno, altri dicono addirittura nel 2016, tutti hanno lo spettro del 36-37, quando la Federal Reserve alzò i tassi e la borsa si sgonfiò di nuovo terribilmente. E quindi questa è l'incertezza che regna, sì, in, sì, America. Beh, poi in sai momento. Però le cose sono contrarie. Da una parte alzo i tassi e sgonfio i corsi azionari, dall'altra parte non alzo i tassi, continuo, diciamo, ad alimentare il denaro. E la bolla è sempre più grande. Prima o poi stampano moneta. Prima o poi questa roba però no, va fermata, se no scoppia e fa un boom gigantesco. Vabbè, e intanto sentiamo che storia ci racconta Marina Milone oggi. È la storia è la storia della battaglia del checkpoint Pasta, cioè dell'attacco dei ribelli somali contro il contingente italiano che si trovava lì per una missione umanitaria dell'ONU nel 1993. È una storia importante per capire quello che sta accadendo oggi in Somalia e in Kenya dopo l'attentato, il terribile attentato all'Università di Garissa. Ne parliamo con Alberto Negri. Allora, prima di chiudere, il canzoniere. Poi se rispondete subito bene, se no domani. Stavolta è facile, eh? Dagli atri muscosi, dai fori cadenti, dai boschi, dall'arse fucine stridenti, dai solchi bagnati di cervo sudor, un volgo disperso repente si desta, intende l'orecchio, solleva la testa, percosso da nuovo crescente rumor. Ma questa già potrei fare anche io. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS. Se ce la fate subito, bene, se no domani, perché siamo in chiusura, ma avete una giornata per riflettere. Facile, facile. Prima della pubblicità, pensiero stupendo di Patty Pravo. E vorrei per amore terribile.